IC7. Yes. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attenzione, canale 10, cambio. Hola, hola, hola. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola, hola, hola. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attenzione, canale 10, cambio. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attenzione, canale 10, cambio. Uno, due, tre, prova, cambio. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prova. 1, 2, 3, prova, cambio. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola, hola, hola. Uno, due, tre, prova. Hola. Oh, oh, oh, oh, oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola, 1, 2, 3, prova, unia radio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brigida, accendi nella Brigida, Fiorellino. Oi, Natalino, buonasera. Beh, Emanuele. Tutto a posto, sì. Sì, sì, tutto a posto, è da mettere a posto. Allora, siamo in due, siamo. E qua, bubù. Per carità. Allora, tu fai un vento. Cazzo, era che ti dici con i biombi, ti dici il casino. L'ha detto che faceva tempo brutto. Ieri a Tisi, Vera, 8 gradi. Ah, un freddo, che pidia la iatta, che sono andato a fare questa visita. Arrivo qui e c'era il doppio della... verso Sassari. Ha cambiato come dal giorno alla notte. C'erano 16 gradi. Il doppio della temperatura che c'era a Tisi. Ehi, me lo posso immaginare, già lo so, sì, e beh, qui è tutto un altro ambiente. Chiatta, ha attaccato a più via fai più freddo, ma freddo di neve proprio. Figurati, e domani c'è messo temporale, domani è domenica. Forse anche su chi può fare, tanto non comandiamo noi, a comanda chi tu di sopra. Ma bisogna vivere come Dio ci manda. E infatti quello del piano di sopra comanda, mica comandiamo noi, Manuè. A Marco Condor non l'hai sentito? No, ho sentito, perché io sono 2 giorni, 2 o 3 giorni che non entro. stamattina ti stava cercando Luca, si è attinato in tuboguia. Paga Luca. Flipper, l'amico tuo. Paolo, siamo in la zecchera. Cazzo, tu chiamo al telefono, ma come rispondi? Cazzo, vai a vedere un ricorsi. Ti stava chiamando qui, io l'ho sentito, Fiorellino, Brigido, e tu non rispondi. Non c'ero io, cazzo, non c'ero io. Sono rientrato a casa che erano la una. Cazzo, ah, dici che ti intendi le vecchiette di 90 anni. Almeno cazzo mi interessano tutto. L'importante è che respirano ancora e che abbiano i soldi. Ah, tu sì, io a gira mi pari su sport, rubiglio burueo, mi... Cazzo, ma me... Gigolò facciamo, Natali. Cazzo, ormai bisogna vivere così. Mi sa di sì, Come divertirsi... Adesso scrivo un libro. Come divertirsi con i soldi degli altri. io, per carità. Bene, mi ascolti, Natale, sempre, sì. Di lusso. Veramente di lusso. No, anche ogni tanto l'antenna si pulsa. Vabbè, non dà problemi, perché oscilla lo stilo. Capì, vabbè, però io ti ascolto bene. Ma non ce la metto attorno in congelatore. Ma là caranchivi, ti andava, ero manco di intendue, in congelatore ti sentivo più basso. Sì, cazzo, io lo credo. Cazzo, va via, avevamo messo la trucca e stazionare a tre, va via, figurati, già lo credo, mettere più basso. No, qua stai uscendo divinamente bene. Così, come la messa, tarata e tutto, la massa, ha fatto una bella massa, cazzo c'è uno e uno, non di più. Sì, ma riceve anche meglio e trasmette meglio in questa posizione dove è adesso. E io ti ascolto come dal giorno alla notte. Molta gente non ti sentiva neanche quando ce l'avevi nel modo o nell'altro modo, capì? Se non intendiamo con Luca Marincugno, figurati. E poi no, strano, perché mi sentiva fa che non mi sentiva Luca. Vabbè, adesso è già cambiato un pochettino, là. Un po'. L'esame di Sassari già mi ascolta. Lo credo. E beh, Franco è più in alto e più libero. Luca risulta più in basso, ma molto più in basso di Franco. Capito? È per quello che Luca non ti sentiva. La zona è diversa. Lo so, c'ha il palazzo davanti. Rimane più basso, sì, rimane più coperto. Infatti, va una zona, Franco, di luce a velo, oppure un pezzo di viru verro e l'intendi nei due. È una bella zona, sì, non abbiamo piazza Tassiamante, la sua, ma non piazza Grimpari, una bella zona, sì, cazzo si vede tutto. Io pure sono salito su quel tetto lì quando gli ho aggiustato l'antenna TV, e quando abbiamo piazzato l'antenna gli avevo messo il dipolo pure, cazzo, mi aveva un impianto branco veramente di lusso prima. Da poi si è detto un cadru baru e si è barrata l'antenna, ma quando va via la manto va e si aveva vinto. Lì anche adesso che c'è con l'antenna va bene, anche quella che c'è adesso lì si mette un bel dipolo per i 45 metri, cazzo, intendi tutto. Ce l'aveva, gliel'avevo fatto io il dipolo per i 40 metri, ascoltava tutto da quella zona, è di lusso veramente. Sì, no, ma è una bella zona lì. Cazzo, figurati se la bocca in occhi. Cazzo, in questo palazzo dove sono io sono 8 piani, fatelo conto. anche lì deve essere una bella zona. Se tu dovessi mettere l'antenna lì, esci sparato da lì. Se ti ascolto con l'antennino, figurati se metti l'antenna sul tetto. Ma non mi sa che siamo un cavo, cazzo di cose, minimo 40, una quarantina di cavo, una quarantina di metri di cavo. Lo so, purtroppo. E di chi sono il Subaru? Ma cosa se no vai troppa dispersione con 40 metri? Disperde molto il segnale. Aspetta un attimo che mi chiamano al telefono, magari. Vai, fai. Attenzione, Marco Condor, ci sei? Marcolino Condor, dormito, sì. Io vedo così, Natali. È così. Lo so. Break per un controllo. Avanti. Ciao Natali. Beh, ho cambiato la capsula, quel microfono, guarda come va. Sembra meglio. Sembra o è? Sembra meglio come modulazione, però è bassa, non è forte come il radio. È una radio normale questa qua, è un microfono normale. Ehi, radio normale, non è amplificata. Così deve essere, normale. Vabbè, è interessante che non si occupa, eccetera, eccetera. No, va bene. Un attimo che passo in QRX che sto facendo cosa qua. Giuseppe, però no, allora no. Manuel. Dimmi già. Come sto arrivando da te con questo microfono normale? Guarda, è 5, però è normale, dai, va benissimo lo stesso. Confronto all'altra già va bene, la modulazione. E dai, c'avevo un'altra capsula e ho provato a metterla, se non va bene. Sì, già va bene, dai, ce la pide lì. Adesso è finito, non è così più da me. Troppa roba, non troppa roba. Dalle scatole, cercando, facendo, fatto un casinone. Ma a me che fa amplificato, perché non glielo metti? Perché questo qui, vabbè, è un baracchino che c'ho in più, capito? Se voglio ce l'ho l'amplificato, se glielo metto esce la bomba. Magari se gli metto un amplificato cambia la modulazione, perché è normale, dai, è come che stai usando un portatile. Aspetta un attimo, Manuè! Ehi! Questa come va? Più forte è questa. Questa è amplificata però, capito? Questa va un po' meglio, è più forte. Questa qua ce l'avevo, ce l'ho un'altra parecchio, poi dai, adesso lo puoi pesare. No, va bene questa. L'altra rimane più pulita come modulazione. Sì, già va bene, era fatto per pesarlo. Tanto non devo usarlo, questo qui lo tengo di scorta. Già va bene, già esce bene. Dai, ne approfitto, mi sento un attimo già. Ci sentiamo a casa mai più tardi. Natale, ci sei. Hola. Cinco. Commenta. Su che andiamo, su. Ya ti piace poco, detto. Assumi la buona anima, amico. Io credo che dimostro. È vero. Almeno, male dentro che sì. Manuelo. Manuel, rientrato, sì. E da dove sono rientrato? Da Vissidu, sì. Da Vissidu sono rientrato stamattina. No, rientrato. In frequenza. Pure io da Riccento. Poi a Riccento non ce ne sono più macchine. Infatti siamo fuori. Ciao a tutti. Ciao Marco. Oh Marco, guarda, questo qui gli ho cambiato la capsula al microfono, va meglio? Ma è il microfono originale? Sì, l'originale, l'originale dell'apparecchio. Molto meglio, quella era nasina e un po' citofoni, che era proprio così, un po' già capito. Adesso è molto migliore. Avevo una capsula, ho provato a metterla per vedere se andava bene, poi era proprio giusta, ci andava proprio bene. Che dinamica? Sì, una capsula dinamica, diciamo di qualche microfono che avevo demolito. Beh, ciao Manuè, riprendi che io sto devo disfare la spesa, a dopo, ciao. Fai la spesa io. Manuele non mi copia. Manuele, hai sentito? Sì, mi hanno allontanato per un secondo. Ciao Marcolì, sì che ti sento. Ti ho salutato, evidentemente mi ha sentito modulato giallo. E avrete ripreso assieme. Ehi, a dopo, ciao. Devo disfare la spesa, ciao. Ehi, ciao Marcolì, a dopo. Ma sento delle voci, non so se sono splatter o se sono... o se è propagazione. Manuele, compresa. Ui, a tutti distratti. Stanno lasciando andare tutti quanti, ma stanno più entrando, No, ma infatti io credo che tornando avrei sentito già una rotta. E ieri com'era? Lo stesso un po' vuoto? Non mi ricordo nemmeno se l'ho ascoltato ieri. Ieri ho acceso e poi spento, non c'è nessuno. Non ho aspettato tanto, è la verità, perché quando vedo così mi passa la gara. Ui, sempre questa fiacca eterna. Vabbè, io sono andato stanco, ma ogni anno che passa è peggio, poi sicuramente è colpa del vaccino e del 5G. Io penso che sia davvero il vaccino, perché anche a me questa stanchezza non ce l'avevo mai avuta. Io non ero mai stanco e così. Adesso invece, dopo un pranzo mi addormento, stamattina mi sono visitato alle 10 meno un quarto, che per me è tanto, io di solito alle 7 sono in piedi. Mi sono sognato che c'erano dei ladri, mi stavano aprendo la porta. E anch'io ho sognato roba negativa, tipo mamma che stava male, oppure che mi pare che da molto mi sbattevo contro un'auto, tipo lo spigolo di un'auto, insomma roba brutta. E le paranoie della giornata. Sì, le preoccupazioni, anche perché a Sassari veramente stanno investendo un pedone al giorno, sempre incidenti, sempre tamponamenti. Io mi chiedo come abbia fatto in da 91, mi pare che ho la patente B, mai un incidente in macchina, né subito e né causato. Come cacchio fanno questi? Vuol dire che sei prudente, Marco, ma a volte anche questa è la disfortuna, perché magari sei prudente tutti vengono addosso gli altri. Cioè è meglio, guarda, anche se la presenza, ma vedi uno sparato, no, perché certi dicono no, io la presenza devo passare, se mi colpisce mi paga, e poi gli danno magari concorso in colpa perché non ha fatto di tutto per evitare l'incidente. No, io faccio di tutto per evitare l'incidente, perché poi una rottura di scatole, tempi lunghi, devi aspettare quello che fa la perizia, devi portare al carrozziere, devi aspettare il liquidatore. Io, per carità, guarda, fare un incidente è una scocciatura. Io me lo ricordo quando mi avevano fatto cadere in moto, ma cadute sceme, mi quasi la fermo. Però fanno di tutto per darti qualsiasi colpa che magari non hai, è uno schifo. Per non parlare delle false testimonianze, come quella del tramviere una volta. E a me una volta era comprare una mura a fare la spesa, e questa qua facendo retromarcia mi ha buttato la moto in terra. La verità, è entrata in negozio e ha detto: di chi è quella moto che c'è fuori? E io gli ho detto: la mia, perché? E guardi, l'ho urtata e l'ho buttata in terra. E c'era uno affacciato al terrazzo e ha detto: signora, non è che l'ha buttata solo, ha continuato a camminare, l'ha strisciata in terra la moto, e l'ho vista io dalla finestra. E fatto sta, questa cosa, no, gli faccio l'assicurazione, non c'è problema. Poi si tira indietro e mi pare che lì ci sta giostrando, che non è, che era già graffiata da prima la moto, capito? Aspetta, che tu devi dire, ma non è un problema, cioè non... se lì l'ha fatta cadere, i grafici sono, poi se c'era qualche graffietto prima non le deve riguardare, lei danno ha fatto e deve pagare. Poi se sono moto d'epoca come erano le mie, e dico ma è vecchia, ma qua ma il ricambio, dice se ti invitano a comprare i cambi dalla fascia carrozze, cioè non ti valutano il pezzo nuovo che devi comprare dal rivenditore, perché i pezzi poi si trovavano, te lo valutano in base alla vetustà della moto, almeno per quelle vecchie, è tutto uno schifo. Le assicurazioni sono una specie di pizzo legalizzato. A proposito, l'ultima schifezza risentita che vogliono fare questi scooter, a me sarebbe piaciuto averne monopattino elettrico, per cose veloci in zona, no, commissioni veloci, no, vogliono fare targa obbligatoria, assicurazione e casco, e cioè io per pigliarmi un'assicurazione, la targa e il casco me le schermotto, quindi affosseranno anche quel mercato lì dei monopattini elettrici, capito? Che non ne prenderà più nessuno. E adesso li prendono tutti, Marco, perché sono liberi, non devono pagare assicurazione, solo che se ti sbatti poi cosa fai? Se ti sbatti una macchina tocca pagarlo di tasca. Ma io sbattere io no, magari mi si sbattono gli altri. Cioè, tanto ti fai male, uno fa di tutto per non sbattersi, casomai sono le macchine che ti vengono adattate. Io guarda, io non passo col rosso, non vado contro mano, non brucio rotatorie. Purtroppo queste misure le hanno prese anche perché in certi centri, tipo grandi città, questi monopattini erano una piaga, ma non per il monopattino in sé, per quelli che li guidavano, che passavano tra i pedoni, investendo ogni tanto, buttando a terra qualche vecchia, qualche persona, rotatorie bruciate, rotatorie contromano, senza luci di notte, di tutto e di più, semafori non esistono per loro. Per colpa anche di questi, adesso faranno tutto tipo ciclomotore o scooter, cioè chi ne prende più. Il bello del coso del monopattino era la libertà, non avevi tutte queste menate, cioè tra un po' ti fanno mettere anche le bretelle gira gira dei frangenti, così sei vestito proprio a festa. Ma per carità, guarda, io ho un amico che aveva una passione per le moto, da quando è uscito il casco non ne ha più, l'ha venuta, non ne ha più preso di moto, ne aveva la passione, perché il suo senso di libertà era stare con la stessa scoperta e andare i capelli al vento quando camminava. Se gli studi questo senso di libertà è lui che va in moto, se la riva in macchina. Vediamo se era entrato Emanuele. Emanuele, ci sei? Sì, sto preparando, vi ascolto, sto preparando la roba per la cena. Scappa. Già, e mi ricordo comunque che fino al 90 di sicuro, allora il cinquantino, io avevo il ciclone Garelli, no, il super ciclone, allora niente targa, niente assicurazione e niente casco per i maggiorenni, io ero già maggiorenne. Poi dopo il 90 tutto, targa, assicurazione, casco obbligatorio, mi pare anche per maggiorenni, insomma, una rottura di balle. Poi lascia perdere. Sì, infatti quell'amico mio ha detto basta, una volta che c'erano i caschi per le moto che erano obbligatori, l'ha venduta anche perché la ragazza non si sedeva, perché dice che si scarbigliava la pettinatura, che questo e quell'altro, e non andava in moto, capito? Quindi lui è stato costretto a vendere la moto e si è preso la macchina. E anche quello è vero, tu ti ricordi le ragazze anni 80, forse anche i primi 90, che avevano quei capelli tutti vaporosi, cotonati, no? E quindi se mettevi il casco te li rovinava, te li distruggeva, te li appiattiva, te li schiacciava, no? Non andava bene. Vabbè, però vedi, posso capire che il cinquantino, che tanto le strozzature le tolgono tutti, perché se no con le strozzature non fa le salite perché si affoga, io lo so, non riusciva a fare le salite che si affogava il ciclone, no? Fanno 70-80 orari e posso capire che ci stia un'assicurazione alla targa, ma questi scooter li hanno anche limitati a 20 orari, 20 orari poi di punta, no? Di picco, pesano quanto una bicicletta, che cosa vuoi fare l'assicurazione targa? E il casco, e fra un po' anche le bretelle se ti fidi, i rifrangenti, che chi ne usa più a usarle in quelle condizioni? Cioè, hanno cominciato a limitare la velocità da 25 a 20. E chi non aveva, lo sai che chi non aveva il firmware adatto, in teoria non poteva manco circolare, dovevi praticamente ridurre a 20 la velocità massima. poi hanno cominciato le frecce obbligatorie, che poi le macchine, allora io raramente vedo una macchina che usa le frecce come vanno usate, molti fanno le rotatorie frecce proprio non le mettono proprio, e poi obblighi il coro, però se non avevi le frecce nel monopattino te lo sequestravano, è come che non fosse idoneo a circolare sulla strada, capito? E prima in bicicletta ti ricordi si mette va il dito quando dovevi girare ed era quella la freccia. Ecco, io però sono curioso di sapere se queste restrizioni che faranno è solo per i monopattini o anche per le bici elettriche. Quello non lo so, dovrei vedere la proposta di legge. Penso che sia della stessa categoria, Marco, bici e monopattini. Sono sempre mezzi di locomozione. Da una parte è giusto che abbiano il casco, perché qualsiasi cosa succede ti fanno cadere il coso, si è almeno riparato in testa. Ma per dire, io 18enne all'epoca, col cinquantino, non avevo obbligo di casco. Però quando uscivo un po' fuori città, anche lì punti, cioè zona limitrofe, siccome andavo un po' più veloce, il casco me lo mettevo di mia spontanea volontà. Finché è un'opzione che tu puoi fare per conduttore un conto, ma quando è un obbligo ti passa la voglia di fare tutto. E sai che settore stanno affondando anche? Quello dei droni. Droni prima liberi, sì, c'era gente sconsiderata anche lì, però è così, è corso, è patentino e non so se abbiano un'assicurazione. Guarda, stanno studiando tutti, da poco credo che vogliano provare o abbiano provato una specie di bollino, che non ho capito cosa sia, che vale 2 anni, è come una specie di revisione, vale 2 anni, se non è quello ti sequestrano tutto. C'è un sacco di gente che usava i droni anche in campagna che sta abbandonando questo hobby perché è diventato, cioè ti fanno passare la voglia di fare tutto. Prima ti danno la caramella e poi capito cos'è il discorso, devono fare cassa. Fa fare dopo 3 anni ti fa fare tutta la documentazione e dopo devi ritornare i soldi eccetera eccetera, è un casino, prima non era così. Allora è entrato qualcuno, buonasera Natalino. Buonasera Gianni, c'ha il dito svelto e mi sovramudula sempre. Passavi tu qua, però tu sei più vicino. Lo so, però lui parla sopra di me sempre, perché schiaccia subito, capito? Sai cosa volevo fare con un baracchino? Allora, alcuni di quei baracchini recenti hanno la funzione busy, praticamente se il canale è occupato, se qualcuno ha sbloccato lo squelch all'istante non ti fa premere la portante, perché metti che io sia girato, che lo stia guardando lo smitter, no? Io c'ho sempre lo squelch, nel momento in cui io premo, magari riprendo assieme a qualcuno, se qualcuno ha già ripreso, che ne so, un decimo di secondo prima, mi inibisce la trasmissione, lo volevo attivare per evitare di parlare in due, perché l'altra volta in effetti stavamo facendo un pasticcio sul canale. Dovremmo introdurre quel sistema della ruota come era una volta, cioè ognuno si memorizza quello che deve rispondere all'uno all'altro e si fa fare sempre il giro di ruota, cioè bisogna riprendere esclusivamente quando si viene rilanciati, però è un po' difficile da fare. Vai Natali. No, non è difficile, è giusto che sia così, Marco, se no ci parliamo uno sopra l'altro e non va bene. È giusto che sia così, parlare solo quando si è chiamati a farlo. Però sai, quando ti viene la battuta, no? Uno dice ancora, ti viene la battuta da fare a caldo, cioè se la fai al giro di rotta no, non rende più, riprendi Gianni. Ma poi non è da questo caso, perché non sta uscendo Gianni, non sei uscito, è uscito riportante. E adesso? Adesso è uscito. Allora, appena hai premuto ho sentito come una micro scarichetta, sai, e non è uscito di radio, magari il PTT. Comunque già, devo dire una cosa, che quel Drigo è miracoloso, perché ti spiego, io inserivo il cavetto che va dal cellulare allo stereo per amplificare i video musicali, no? La musica. E faceva certe scariche all'inizio terrificanti. Ho detto, ma non è che con un po' di CRC l'ho spruzzato, l'ho spento il cellulare e l'ho spruzzato quello che evapora, quello secco, nella presa auricolare del cellulare e anche sulla spina della jack stereo 3.5, no? Niente più scariche, proprio è una cosa, proprio, come dire, fa Napoli, cioè, distrugge l'ossido, lo fa scomparire, è miracoloso quell'affare. A me mi è caduto il cellulare nel water l'altro giorno, cazzo, meno male che diciamo mi è caduto prima di fare la pipì, perché se no non l'avrei più usato. L'ho tolto subito in fretta, veloce, l'ho subito asciugato, preso il collo asciugato e grazie a Dio non gli ha fatto nulla. Eia. E a me una volta, per fortuna, no, ho abbassato gli jeans, mi è caduto il portafoglio nel gabinetto, che per fortuna era prima di fare. Me ne sono accorto subito perché c'era un documento, tutto tolto la carta d'identità, che è cartacea, la patente è la cartacea. Per fortuna, siccome uso quelle i sei portadocumenti, quelli plastificati sopra, no? Si sono inumiditi solo marginalmente, li ho lasciati asciugare e non si sono rovinati, ma le bestemmie che ho tirato. Beh, ce l'avevo in tasca, mi Marco, come mi sono infilato e scivolato dalla tasca. E così ha fatto a me, però il portafogli. A Natalino invece al porto, è caduto. Era la più pescato. A proposito, Natalino, cosa sai del drone? Cosa vi detto? Che non ho seguito il discorso, appena è rientrato. Che mi è caduto al porto a me, che stavo pescando e l'avevo appena comprato, il 3330 della Nucchia, me lo ricordo ancora. Cazzo, è caduto in 30 metri d'acqua. No, non quello Natali, prima ancora, quando stavamo parlando dei droni con Gianni. I droni? No, che prima ti danno la caramella e poi devono fare cassa, no? Quello lì volevo dire. Capito? E te ne prendono tutto. Così per la moto. Però se si fu è meglio mettercelo il casco uno. Allora perché una volta andando agli punti con quella Vespa che avevo io, mi ha beccato un buvone, cazzo, a fronte, per poi ho acceso fuori strada. Un dolore pauroso. Vabbè, il mio non è integrale. Se ti prende in faccia, il mio è getto, un casco aperto. Giusto gli occhiali porto, che siano da solo da vista, metto gli occhiali. Io una volta penso che in velocità Vera Trevor, una moto sportiva, in velocità Vera Trevor aveva beccato un passero nella direzione opposta e non so se avesse la visiera aperta, gli avevo fatto un occhio così. Poteva essere anche molto pericoloso, mi potevo farlo cieco. Io solo, se ti sto dicendo, un bubone mi ha preso in fronte a me, mi ha preso. Guarda, per poco ci esco fuori strada dal dolore. Ho tenuto la moto per un pelo, non mi sono ammazzato. A me mi ha preso la pancia invece, mi sono inchinato, cavolo. Ero con un'amica mia, si è impressionata perché mi è uscita l'acqua dal naso, siccome eravamo al mare. Come sono inchinato dal dolore, dice, cosa c'è? A male ci sei? No, mi ha appunto un bubone, un diabete di bubuglione che mi ha fatto dalla pancia. A voi, mentre guidavate la moto, vi è mai entrata la Vespa tipo dalla manica della maglietta? A me due volte è capitato, una volta andando a Valle d'Oria, per fortuna non mi è capitato nel rettilineo che ero in velocità, mi è capitato che praticamente avevo già parcheggiato la moto, come ho fermato la moto, come se il cavalletto, sento questa pugnalata forte dietro, mi sono stracciato la maglietta, ed era una Vespa anche piccola mia, una Vespa piccolina, una baby Vespa. Una volta mi è capitata la Buddy Buddy, poco prima di arrivare alla Litoranea, sento questa pugnalata perché finisce poi dietro sempre dopo via della turbolenza dell'aria. E quello perché io avevo il porco vizio in estate, tipo per andare al mare, di andare in maglietta sulla moto, anziché usare il giubbotto in pelle, quello con le maniche comunque strette, in modo che non entri nulla, avevo bisogno di andare in maglietta. E lì praticamente mentre sei in strada, prima di fermarti, cioè non si deve uscire fuori strada, io urlando, il tempo di arrivare proprio a bordo strada, poco prima dell'incrocio, mi straccio la maglietta. E anche lì c'era una Vespa piccola, piccolina, ma grazie a Dio, penso se era una Vespa grossa, ogni dolore. E te lo faceva lo stesso il dolore, piccola cosa, una pugnalata sembra. Sì, ma poi brucia come il fuoco, è una cosa terribile. A me Marco è capitato, ma in macchina, mi è entrata da sotto dove dai pantaloni, ma appunto mi ha fatto venire un dolore, più la toccavo e più faceva male perché mi pungeva a capo. Adesso penso che mi abbia appunto più parti perché mi sono dovuto fermare per poco di su fuori strada. E lì praticamente in quei secondi che accosti e che metti il cavalletto sotto, ti ingaggi la moto e poi sono stare. Mi sarei voluto vedere, guarda. Sì, guarda. A me di tutti i colori lo stesso me ne sono capitato. Sì, ma la puntura della Vespa, cavolo, è un bel doloroso, sembra che ti metta un accendino. Sì, e poi ti fa il vulcanetto, hai visto come si fa un po' il vulcanetto, no, rosso, poi però passa. Giusto quei pochi minuti tende a sgonfiarsi e a passare. Meno male che non sono allergico, perché se uno è allergico gli si blocca, come si chiama qua, l'epiglottide, non respira e se non ci sono soccorsi muore pure. E se uno è allergico gli viene lo shock anafilattico, io lo credo. Io grazie a Dio allergie conosciute, cioè allergie niente, a nulla, né alimentari né a punture. Vabbè, le punture non le ho provate tutte, per esempio la puntura del scorpione non l'ho mai beccata, o di altre cose, però sono abbastanza, no, non sono allergico né sostanze alimentari né farmaci né niente. A me mi hanno ordinato, a proposito di farmaci, la vitamina D, sono carente di vitamina D. Vitamina D? Allora, se prendi vitamina D, prendi anche un po' di sole, perché riesci a metabolizzarla meglio prendendo il sole, la vitamina D. Così ho sentito da un salutista, poi non so se sia esattamente così. No, è così, perché gliel'ha detto il medico a Concetta, gli ha detto che perché sono sempre chiuso qui, a Pigliasori. Sì, infatti un po' di sole fa bene, anche sai quei sabati, quelle domeniche a Platamona, che sia pescando, che siano pescando, anche ho fatto un giretto così, tanto adesso che migliora il tempo, già basta uscire in macchina che ti abbronzi. Adesso vediamo un po' cosa vuoi ti dica, cercherò di uscire più spesso. L'altro giorno sono sceso, ho trovato a Bruno lì a Platamona. L'altra mattina ci abbiamo preso il caffè assieme e si raccampa. Ieri c'era un freddo a Tisi, oh Marco, c'era la metà della temperatura che c'era qua a Sassari, 8 gradi, un freddo di neve, via. Come arrivo verso Sassari ha cambiato totalmente. Lì c'era il cielo nero, gatta piovendo, stava freddo di... guarda, arrivo verso Sassari e è salita da 8 a 16 gradi, la metà ce n'era di temperatura là. Ma Tiesi è in alto? Evidentemente sì, perché c'erano 8 gradi lì a Tiesi e qua verso Sassari c'erano 16 gradi, ce n'è di differenza, no? Altro che, e la senti tutta, la senti proprio. Bene, va bene, riprendete che faccio qualcosa qui un attimino. Sì, fai qualcosa. Gianni, sempre qualcosa sta facendo questo Marco. Tutte scuse sono. Allora. Vabbè, là, comunque sono contento che sono riuscito a metterlo in corso, che va meglio là in questa capsula. Perché non lo potevo sopportare, ragazzi, che non andava bene. E ti faceva la voce cupa e rimbombante, quell'altro microfono. Ma quello quello era l'amplificato, vero? La capsula ha cambiato, Natali, solo la capsula. Infatti cambia dal giorno alla notte. Te l'ho detto che, è più chiara la radio adesso. Ma adesso è tutto quanto a posto. Tutto restaurato bene. Non è più diventato nero. Oh già, però quello nasale era il mic originale. Quello un po' rimbombante era l'amplificato. No, quello rimbombante era quello, sempre questo qua, con l'altra. Ah no, l'amplificato, hai ragione. Cioè l'amplificato dice che me la faceva rimbombante, però se uso quello della mitra dell'amplificato, se te lo faccio sentire esce bene. Leia, vabbè, tu ti sei sentito come ti ascoltavo. Sì, era un po' rimbombante, ma era capibilissima, eh. Sì, ma era cupa come voce, mi. Non era chiara come questa. Questa è tipo il 3009 che esce bene, dai. Anche in ascolto, io perché prediligo il 3009? Per quanto adesso l'abbia un po' abbandonato. Perché mi piaceva il 3009? Perché aveva una ricezione con una tonalità leggermente un po' più alta e quindi anche le modulazioni un po' cavernose, un po' cupe, me le schiariva, capito? Invece, quello che avevo dato al profeta, che anche quello praticamente è un 3009 però al frequenzimetro, quello invece aveva una timbrica, ricezione piuttosto cupa. Tu dici, è lo stesso apparato, eppure se tu li sentivi a fianco e attaccavi l'antenna dall'uno all'altro, quello era un più cupa ricezione. Non bilanciata, come può essere il 5005 di ricezione, ma era proprio più cupa. Forse per quello anche che mi piaceva meno come apparato. E poi mi ricorda quel disgraziato rivenditore che mi aveva bruciato l'assistenza dell'Albrecht 5008. Ah, quel bastardo che ha bruciato anche a me, che avevo preso il Midland SX, il 48 SX, e andava male. Praticamente mi si è bruciato, come è stato accenderlo, si è bruciato. Ma quello toscano, Luca? SX si chiama, quello che era già praticamente con l'Eco Colt, già tutto modificato, eccetera, eccetera. Quello è il Midland, però quello che arrivava da fuori era modificato, l'ho comprato e mi è durato da Natale a Santo Stefano. Certamente, non il venditore, dicevo, era quello toscano. Eia. Sì, guarda, quello comunque molti sono lamentati, agiva in modo scorretto, non ti faceva l'assistenza degli apparecchi, cioè te lo faceva mandare a lui e poi lui non faceva niente, anzi a me aveva detto che l'aveva spedito la Midland, che la Midland era lenta nell'assistenza, invece avevo contattato la Midland e avevo chiesto se c'era un apparato o a mio nome o a nome del venditore, nome proprio, oppure a nome dell'azienda del venditore, e non risultava. Allora loro, siccome gli ho detto, ha detto che ce l'ha la Midland, che la Midland è lenta, allora loro hanno contattato lui e praticamente si è sgamato, che dice l'ho trovato, era rimasto in una zona del laboratorio un po' nascosta, 8 mesi si è tenuto, non ha fatto una minchia, e poi sai che cos'era? Era una cosa di una banalità assoluta. Sai chi l'ha riparato quell'apparato? Gli avevo regalato a Tex di Alghero, e lui ce l'aveva uguale, lo voleva per i ricambi. Beh, cos'era? Era il potenziometro della M, no, non il potenziometro, il trimmer della M è bruciato, lui l'ha sostituito e l'apparecchio è tornato nuovo e funzionante, e quel babbeo là del venditore non solo non ha fatto niente lui, ma non l'ha spedito in garanzia, perché era in garanzia, all'assistenza Midland, e l'ha fatto a varie persone questo di bruciare la garanzia, quindi non hanno buona fama. E a me non me l'aveva spedito senza lo scontrino. Quando gliel'ho chiesto mi ha detto sì glielo mando, guardi, mi sono dimenticato di metterlo quando ho fatto il pacco, ma glielo mando, non ci sono problemi. Tu mandatemela a Marco, altrettanto lui. Questo deve essere un bastardo di quelli proprio patentati. No, vabbè, allora, diciamo, se è roba amatoriale grossa magari poi lo assilli e te la risolve, però per i baracchini non ci perde tempo. Ma se lui me l'avesse detto, io l'avrei spedito di mio alla Midland direttamente, senza passare per lui, se si può fare. E molti sono lamentati su Roger K e insomma, senza far nomi, perché nomi non se ne fanno, però dalla zona si è capito che era lui, lui c'è, a Lucca c'è solo lui. È il truffaldino, infatti ce l'avevamo detto, te lo ricordo. Sì, magari non truffaldino, ma molto scorretto nell'assistenza. Cioè, se non hai voglia, dimmelo, io non ho problemi a spedirlo alla Midland. Per esempio, quando mi si era bruciato tanti anni fa un portatile Intec, tantissimi anni fa, io non sono andato a scocciare Grassi, Giorgio Grassi, l'ho spedito alla Intec, me l'hanno riparato in men che non si dica, in 20 giorni avevo di nuovo il portatile. Sai che portatile era? Era un Endicom 20LX, mi pare fosse uno dei primi portatili col display a cristalli liquidi. Grassi mi vedeva, la roba della Intec la vedeva Grassi. Eia. Però adesso io non so come sia per i baracchini non è che valgano un granché, ma se tu hai un problema con una marca nota ti devi rivolgere al rivenditore o puoi rivolgerti direttamente alla casa madre? Sapete niente? Ma io ho preso la casa madre, il rivenditore se una fesseria magari te la metti a posto, però quando è in garanzia dovrebbero spedirlo alla casa madre. Sì, aspetta che prima c'era il ciucciù, chi è avanti, chi vuole entrare? Niente. Invece sai che è abbastanza affidabile, almeno si è comportato non bene ma benissimo nei miei confronti. Allora, si chiama FLQ Elettronica. Io una volta avevo preso questo scanner da tavolo Uniden. Allora, la fila di bottoni frontali, quelli in basso, ha smesso di funzionare, c'è tutta la fila. Appena comprato, Io l'ho rispedito indietro e non ha avuto alcun problema, ha verificato il problema, me l'ha cambiato, me l'ha direttamente sostituito, a spese sue, per dire. Poi un'altra volta cosa avevo preso? Aspetta, c'era un problemino con un altro apparato, che non ricordo cos'era, lo stesso, nessun problema, è sostituito l'apparato al volo, senza stare a dire no, bisogna spedire assistenza, no, cambiato. Ricordati, FLQ Elettronica. Non mi sono mai servito lì, Marco, non lo conoscevo, sinceramente. Non mi ricordo dove sia nemmeno questo negozio, però corretto, cioè per due volte che ho avuto necessità di, che avevo problemi con un prodotto nuovo, me l'ha sostituito. Quando non è serio fa così. Però sai come va a finire, che quelli seri, quelli che insomma che rispettano tutte le regole, garanzie e cose, non vanno avanti o comunque non ci guadagnano. Quelli invece truffaldini invece si fanno più soldi, vanno avanti e si ingrandiscono come aziende, capito? È strano. Ma poi la voce si sparge, guarda che il cliente è quello che fa più pubblicità, se si sparge la voce di pubblicità contraria non penso che facciamo più soldi, e perché poi si fa di terra bruciata. Sì, e invece magari qualcuno, adesso io l'avevo letto sul forum, io non so se la colpa sia dell'utilizzatore, ho sentito che Media Globe a seconda di cosa, di che danno lamenti non vuole sentire ragioni. Hanno ragione loro sempre, no? Quelli di Media Globe, però secondo me lì c'è stato un dolo da parte dell'utilizzatore finale, che ne so cosa mi viene in mente, potrebbe essere un finale bruciato, cioè se uno prende e si mette l'antenna non adatta e brucia l'apparato appena arrivato, è inutile che poi va a piangere la Media Globe a dire che non funziona, è una mia teoria e non so cosa sia successo poi. Cappa, Natalino, riprendi. Ecco, attento, non più rum. Natalino. Qui che c'è Giovanni chiamando, avanti. Ciao raga, buonasera, mi sentiti? A te e a tutti gli altri. Cambio. Ciao Giovanni, buonasera, dai, dove sei? Roma, dai. KK. Va bene, rilanciamo a Natalino. Natalino si è clissato. Forse già, stavamo facendo ping pong. Un saluto a Giovanni se mi copia, mi deve scusare che avevo lo squelcio alto e non lo sentivo, adesso dovrei copiarlo. Vieni avanti Giovanni. Ti ascolto forte e chiaro. Ciao Giovanni, Santiago 6 il segnale. scappa, e propagazione permettendo anche, dai. Vabbè, questo è quanto, dai, per i venditori. Marco, ma tu cosa stai usando? Un microfono amplificato? No, negativo, sto usando il Presidente Taylor IV, quello 40 canali MFM, col microfono di serie con la capsula condensatore. Questi tutti i presidenti moderni hanno la capsula condensatore, credo quasi tutti. Scappa, là. Quindi risulta come un precompresso, là. Io per esempio, se mi allontano, io sono di tre quarti vicino, vediamo se mi allontano di quattro dita, aspetta. Ecco, quattro dita dal mic, stesso tono di voce, dimmi se mi copi ancora. Sì, ti copio, ma diciamo, leggermente si è abbassata, non tantissimo, ma appena appena. Sì, qua devi parlare vicino, non è un preamplificato, capito? Va bene, dai, io un attimino devo staccare, vado a bere, chiedo a mamma se vuole un caffettino, vediamo, dai. Giovanni, riprendi con Gianni. Sì, ti sento e vi devo salutare anch'io per un pochino, ci risentiamo dopo se mai, ok? Ciao Giovanni, ciao Marco, dai. Ah vabbè, volevo chiedergli a Platamona se c'era gente. La stessa domanda li volevo fare io. Magari quando rientra. E poi io qua non sto piano da nessuna parte, tra commissioni, destra, manca, medico, farmacia, spesa, per carità, no? Vabbè, così siamo, situazione un po' così. Guarda, ti volevo dire già, hai visto quei poveracci, quei poveri sub? Uno l'hanno trovato vivo, per fortuna, l'altro, boh. Spendi i soldi, Marco. Dove l'hanno trovato quello vivo? Aspetta, mi sembra che avessi detto Carlo, era un segnale forte. Carlo, sei tu? Sì, ho detto a spendere i soldi, sia. Buonasera, Marco, non so con chi sia, forse Gianni? Sono Gianni, ciao Carlo. Ciao Gianni, e dove sei, bello? Sono a casa con un altro apparecchio. E infatti la timbrica di voce era un po' diversa, non ti avevo riconosciuto subito. Vai, riprendete pure. Scappa, e tu dove sei? Io a casa. Dammi un segnale con questo apparecchio che è un nuovo acquisto. E con quanti watt stai uscendo? Il segnale è più basso del solito, il tuo, già. Con 5 watt. E qua mi accendi sino a 5. Vabbè, non è solita. Come 5? Vabbè, è interessante che mi ascolti bene, dai. Sì, però è un po' citofonica, a dir la verità, la radio, Non è amplificato il microfono. No, è normale, è il microfono dinamico. Carlo, ma hai attenuato qualcosa? Hai l'attenuatore, il refrigerino abbassato? Aspetta che controllo, mi metto gli PCitti, se no non ci vedo una mazza. Perché sennò ho l'antenna, non credo però, le refrigerino abbassato. Gianni, quant'è? 9.15, 9.20, non ho guardato. Marco, sono andato a comprare quel 5.5, no? Però non è disponibile, per quello costa così poco. Cioè li hanno già venduti tutti? E allora hanno venduto di vaffanballa. Gli altri costano un'enormità. Ma quello più economico hai preso, volevi prendere? E quello da 163. Vai Gianni, fa un passaggio che avevo sì attenuato. Guarda, non lo so, 5 watt è questo, Ciame. 9 più 30 adesso, no, avevo l'attenuatore inserito. Ecco, mi stavo già preoccupando. Vabbè che non è nuovo, l'apparecchio è a seconda mano, quindi poteva essere anche. Ciao Natalino, ci sei anche tu. Ciao Carlo, ciao. Ci voleva comunque, mi ho preso un bel caffè. Ne ho preso che non ne potevo più. Allora, quando stavano parlando Marco e Gianni, sono andato in cucina e mi ho fatto il caffè. Bravo Natalino, io mi ho bevuto una birretta fresca perché sono rientrato poco fa che ero in giro con mia moglie a fare un po' di compere e niente, allora mi sono messo comodo e mi sono bevuto una birretta, tutto qui. E ti sei rifucillato? rientrato, ero al telefono. E beh, Carlo, era quello? Sì, era attenuato al massimo, e infatti per quello tu mi arrivavi fondo scala e Gianni mi arrivava massimo 5, poi ho tolto l'attenuatore ed è salito a 9+30. Sì, poi quelli a LED, diciamo che in città bene o male sono quasi tutti 9+30 con questi smitter a LED. E beh, come ti trovi con quell'apparato? Sei riuscito a familiarizzare un po'? Sì, va benissimo, non è tantissimo complicato come insomma immaginavo, dai, è più o meno è come l'altro, solo che questo ha qualche funzione in più e niente, è leggermente diverso dal 6009, si assomiglia tantissimo, però tipo come dicevamo l'altra volta, il menu ne trovi posizionati in due, diciamo in due settori diversi, capito? Uno sul manopolone quando premi eccetera, e uno sul menu classico, capito? Però a parte quello già va bene, sì, contento, e non scalda neanche più di tanto, è come l'ho piazzato qua, sono senza niente, liscio, è perfetto. Secondo scalda, quando sei in due persone praticamente fai botta risposta, allora comincia a scaldare, soprattutto in estate. Una volta mi stava scaldando anche pericolosamente, infatti gli avevo messo con l'elastico quella ventolina di computer per aiutare, dai. K, va bene, Natalino, riprendi. E K, anda bene Meda, e cosa riprendo? Cosa riprendo? Non è voglia, ragazzi. E domani mattina, se fa bel tempo, me ne esco, me ne vado a Plattamona. Vedo se c'è Bruno, lo telefono prima e poi scendo. Ma tu hai ripreso a pescare, Natalio? No, non ancora. No, che sto facendo il tempo del cavolo, cosa? Se no già sarei andato. Ne ho una voglia, mamma mia. Domani ha messo tempo brutto, vento e pioggia. Cavolo, anzi, quando è due giorni fa avevano dato questa allerta meteo, ieri doveva esserci il fine mondo, secondo loro. Una specie di mezzo ciclone sul Tirreno, e invece per fortuna non c'è stato niente, dai. È meglio così. Natalino, ti avevo mandato su WhatsApp la fattura che mi hanno mandato quando ho acquistato questo apparecchio, niente, giusto per farti vedere quanto l'ho pagato con spese di spedizione, la modifica c'è scritto omaggio, niente, tutto lì, se l'hai visualizzato. Già l'ho visto Carlo, l'ho visto. E rispetto ad altri siti, quello lì è, diciamo, dove costava meno di tutti. Sì, lo so. Natalì, ho dato un'occhiata sul Media Globe, risulta sempre disponibile, però non ce l'hanno, devo togliere la scritta disponibile, dovrebbe essere più immediati però. Sì, vabbè, lasciamo verde e Bodino. In estate vuol dire me ne vado al mare, faccio prima. Fa anche meglio che non stare tappati a casa, Natalì. Altro che baracchino, Gianni, riprendi. Certo che è meglio andare in giro e starsene in girella. Poi adesso, come fanno le giornate calde, è bello andare a fare la passeggiata, prendersi il gelato, no, stare in casa. Carlo, ma ieri hai lavorato? Ieri e oggi è libero e riposo, però non c'ero a Bonorva. Stavamo mettendo a posto perché era morta mia suocera il giorno di Venerdì Santo, e quindi sabato abbiamo fatto il funerale, quindi ero in questo periodo, ero un po' assente perché insomma prima è stata male, era 15 giorni ricoverata ad Ozieri, e quindi mia moglie stava viaggiando tutti i giorni, qualche volta l'ho accompagnata io compatibilmente con i miei orari di lavoro, giusto per non fargli fare il viaggio da solo, quindi ero avanti e indietro, capito? E quindi ieri eravamo eravamo al cimitero e ci siamo fermati nella casa di Bonorva e abbiamo pranzato lì, quindi siamo rientrati di sera tardi. Mi dispiace, dai, con gli altri ho pagato un no, perché ieri è partita Manuela e sono venuto lì all'aeroporto. No, non c'ero ieri, quindi niente, sarà per la prossima volta. Solitamente ci incontravamo, invece ieri è andata così, dai, sarà per una prossima già. Non c'è problema, siamo a Sassi. Non c'è problema, te lo chiedo perché ho guardato, non ti ho visto, per quello che l'ho chiesto. Kappa, andava. E tua figlia...